24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Interveniamo attraverso il decreto legge sulle banche popolari con gli attivi superiori a 8 miliardi. Parola del presidente della Consob Giuseppe Vegas. 10 milioni circa è stata la cifra scambiata nel periodo tra immediatamente precedente e successivo l'annuncio da parte del governo della riforma. Quindi in questa cifra ci sono state sicuramente delle speculazioni, stiamo indagando anche all'estero per vedere chi ne ha tratto vantaggio. La riforma delle banche popolari, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulle presunte operazioni anomale riguardanti i titoli del comparto. Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e della Finanza. Non solo la Consob, ma come abbiamo sentito anche la Procura di Roma sta indagando sulla speculazione fatta dal 3 gennaio al 9 febbraio intorno alle banche popolari. È preoccupato? Io mi auguro che la magistratura faccia tutta la chiarezza necessaria, la magistratura e la Consob, quindi non sono per nulla preoccupato, spero che questa cosa sia chiarita il più presto possibile. Senta, ma è effetto del decreto in qualche modo questa speculazione? Santo cielo, questo dovrebbe richiedere entrare nel dettaglio della questione. Non credo proprio che si possa dire che è effetto del decreto, cioè la speculazione, l'effetto del decreto è tutt'altro. Senta, appunto, ma perché la riforma delle banche popolari con un decreto legge? Perché per due ragioni. Primo, perché erano forse 20 anni che questa riforma stava nel cassetto di molte persone coinvolte che non prendevano le decisioni. Secondo, perché il mondo sta cambiando molto più rapidamente di quanto ci si renda conto. L'integrazione finanziaria globale ed europea sta avanzando, il meccanismo di sorveglianza istituzionale sta passando in mani europee e questo è un bene, però questo richiede che gli istituti bancari si attrezzino ad essere più competitivi. Ecco, la caratteristica dell'urgenza sta lì, quindi? Sì, certo, la caratteristica dell'urgenza sta in questo. Ma le popolari che hanno un rapporto con il territorio, un rapporto speciale per sostenere famiglie, piccole e medie imprese, che in realtà sono la struttura portante del sistema Italia, con la riforma non si rischia di annullare questa mission? Ma assolutamente no. Intanto ricordo che stiamo parlando delle popolari più grandi naturalmente, che già hanno una dimensione internazionale, quindi si aiuta questo processo. Secondo, la dimensione di legame col territorio, che è un valore importantissimo, sarà salvaguardata. Non è escluso che si possano pensare miglioramenti della misura che, rafforzando la questione dell'apertura al mercato, permettano anche di rafforzare il legame col territorio. Senta, Ministro Padoan, però in Germania la Merkel ha difeso le sue popolari, il loro ruolo. Senta cosa dice il professore Alessandrini, che si occupa di banche popolari. In Germania è andato in un altro modo, la Merkel le ha salvate. Ecco, è proprio questo il problema. Questo spiega che il decreto legge Renzi non è né prioritario né estremamente utile. In Germania le banche del territorio sono state salvate con soldi pubblici, 250 miliardi. Dinanzi a una crisi sistemica sono necessari interventi sistemici. Altrove, non solo in Germania, hanno salvato le banche per ridare credito all'economia. Ecco, però, appunto, da noi chiediamo all'economia di salvare le banche con nuovi apporti di capitale privato, che però in Italia scarseggia. Però in Germania, per restare un momento in Germania, nessuno ha pensato di trasformare le banche cooperative e le casse di risparmio in SPA. E questo, ripeto, le spiega che non era un obiettivo né urgente né necessario. Ecco, Ministro Padoan, perché in Germania no e qui da noi invece sì? La differenza qual è? Ma mi sembra che il professor Alessandrini, che è un carissimo amico, si risponda da solo. In Germania c'è stato un problema di salvataggio di banche, che quindi stavano messe maluccio, e ha richiesto questo salvataggio ingenti somme pubbliche. Esatto. In Italia non si parla di salvataggio e né si pensa a ingenti risorse pubbliche, ma si pensa a rafforzare ulteriormente le banche. Che hanno avranno una governance più adatta a competere sul mercato globale e allo stesso tempo si salvaguarderà il legame col territorio. Quindi il paragone con la Germania casomai rafforza l'idea del fatto che le banche italiane vanno rafforzate mettendole in un ambiente più esposto alla concorrenza. Lei ha detto che la scelta quantitativa darà una scossa forte, sono parole sue, al sistema. Scossa forte in che senso? La scelta quantitativa quantitativa, intendendo che cosa, mi scusi? No, dico la scelta quantitativa della grandezza delle banche. È una questione molto semplice, si tratta di permettere alle banche di crescere nella dimensione minima, quindi di sfruttare le economie di scala. Questa è una vecchia storia che fa parte dell'integrazione europea, si allarga il mercato, lo si rende più esteso e di conseguenza le unità produttive, banche, imprese, quelle che siano, devono essere a loro volta più grandi. Senta ancora un attimo il professor Alessandria sulla trasformazione delle popolari in SPA. Queste banche che si trasformeranno in SPA, ma chi le comprerà? C'è già un'ipotesi? Se l'obiettivo è stato quello di apportare nuovo capitale, ma in questo momento sono tutte le banche italiane, non solo quelle popolari, sono deficitarie. E quindi arriveranno gruppi stranieri che se le pappano. Quindi il capitale italiano, privato italiano ce n'è poco, arriveranno gruppi stranieri e, ripeto, in Germania, altrove, in Francia, in Austria, hanno invece depurato i crediti inesigibili con la cosiddetta soluzione della bad bank. Sì. E in Italia non è stato fatto, questo è un grande errore. Cioè è un paese che nessuno difende da questo punto di vista, se vogliamo dirla in parole semplici. No, ogni tanto troviamo un capo espiatorio, adesso danneggiando tutti, abbiamo trovato le banche, in questo momento le banche popolari con un capo espiatorio. Il suo amico Alessandrini sbaglia, sì, ministro Padoan. Purtroppo il mio amico Alessandrini sbaglia, perché qui nessuno vuole esporre le banche italiane alle fauci di capitale straniero. Qui si tratta innanzitutto di incoraggiare eventualmente aggregazioni interne. I capitali ci sono molti capitali liquidi, possono entrare in queste banche pur mantenendo un management aggressivo. Quanto alla bad bank, sì, che, ecco, come è noto, sotto il termine non era una soluzione qui da noi? Mi fa parlare, sì, prego, anzi. Il termine bad bank è un termine generico che implica meccanismi che devono gestire le sofferenze, che purtroppo sono tante perché siamo 3 anni che siamo stati in recessione, e stiamo pensando a soluzioni di questo tipo. Per fare una bad bank bisogna anche tener conto della normativa di aiuti di Stato europea, che è molto stringente in certi termini, quindi stiamo pensando anche a quella soluzione. Quindi l'idea che il governo abbia in mente misure che possano danneggiare le banche italiane a favore delle banche estere è francamente una cosa che definisco quantomeno una caricatura. Senta, mille grazie. Ministro Padoan, le banche italiane sono state penalizzate, secondo lei, dai criteri scelti per gli stress test, che hanno considerato solo il credito tradizionale, non i titoli, i derivati, per esempio, nelle pance delle banche? È stata una scelta che ci danneggia oppure no? I criteri per gli stress test sono stati molto rigorosi, in alcuni casi particolarmente rigorosi. Va notato che, malgrado questa rigidità in alcuni casi dei criteri di stress test estremi, il sistema bancario italiano è uscito, pur con le sofferenze dovute a 3 anni di recessione, è uscito in situazioni stabili, però bisogna ulteriormente rafforzarlo anche a livello sistemico e non solo a livello di singole banche. Ecco, ma però, per esempio, le banche francesi e tedesche avevano dei rischi finanziari, cioè in prevalenza derivati, che vanno dal 25 al 70% in qualche caso, per le banche italiane al massimo fino al 10%. Ma le sembra normale che questo rischio non sia calcolato negli stress test delle banche francesi e tedesche? Ma questo non è detto, io adesso non conosco i dettagli delle singole banche francesi, mi sembra un'affermazione eccessiva dire che il rischio da derivati nei bilanci di banche di altri paesi non sia stato calcolato. Ripeto, comunque io guardo soprattutto al sistema bancario italiano e l'obiettivo del governo è quello di rafforzarlo in modo che ci sia più credito all'economia. Senta, ministro Padoan, il rischio che la Grecia abbandoni l'Europa e ceda la sirena russa, secondo lei è un rischio reale oppure un rischio giornalistico? Dopo gli accordi che ci sono stati e sono molto importanti a livello politico ieri e che saranno, io mi auguro, consolidati all'Eurogruppo di lunedì, questo rischio si allontana ulteriormente. Ecco, lei lo sa che, naturalmente, lo sa che il punto 40 del piano, del progetto, diciamo, elettorale di Tsipras, però prevede addirittura l'uscita dalla NATO e la chiusura delle basi. Beh, questo è qualcosa che, come dire, rende più credibile anche l'interesse russo. Io rispetto il governo Tsipras, ovviamente è un governo democraticamente eletto, certo. Rispetto quindi il volere del popolo greco, sono anche convinto che all'interno delle regole europee c'è più protezione e più prospettive di sviluppo e sono convinto che troveremo una soluzione condivisa. Quindi un rischio russo lei non lo vede, diciamo? Io non parlerei di rischio russo. Rischio, diciamo opportunità. Non dimentichiamoci che la situazione globale oggi è delicata e lei ha citato la Russia, ovviamente. Infatti. Il pensiero va alla crisi ucraina. Naturale. Anche lì l'Europa è in prima linea per trovare una soluzione condivisa. Quindi ottimista sulla soluzione della crisi greca? Come diceva un personaggio molto importante, ho l'ottimismo della volontà. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, il premier Renzi, commentando il decreto sulle banche popolari, ha detto che in Italia ci sono troppi banchieri e poco credito. Sentiamo la sua frase. Noi siamo il paese che ha probabilmente il maggior numero di istituti di credito, abbiamo troppi banchieri e facciamo poco credito. Ecco, questo ha dichiarato il presidente. Noi abbiamo fatto una verifica, abbiamo fatto un fact checking con Pagella Politica e abbiamo cercato di capire se è vera questa dichiarazione. Secondo la Banca Centrale Europea, nel 2014 l'Italia è al quarto posto per numero di istituti di credito, con 670 banche. Al primo posto c'è la Germania con 1808, al secondo l'Austria con 707, al terzo la Polonia con 679 istituti di credito. Quindi l'Italia è quarta con 670 banche. Dunque non è vero che l'Italia ha più istituti di credito degli altri paesi europei. Ma l'Italia fa poco credito? Alza seconda domanda. Un confronto con la Germania, paese leader d'Europa, semplifica l'analisi. Sempre riferendoci ai dati della BCE, in rapporto al PIL nel 2013, il totale dei prestiti in Germania raggiungeva l'87%, mentre in Italia il 91%. Quindi l'Italia non dà meno credito rispetto a un paese come la Germania, che ha più istituti di credito. Invece è interessante vedere la direzione dei prestiti concessi dalle banche nei due paesi. La Germania favorisce le famiglie, erogando prestiti fino al 54% del PIL. L'Italia favorisce le imprese con prestiti pari al 53%. Questo per essere completi nell'analisi della frase del Presidente del Consiglio. Mario, che dici dell'intervento di Padoan? No, ho ascoltato l'intervista. Ovviamente la linea del Ministero dell'Economia è quella che deve essere, cioè difendere il provvedimento, il decreto, chiedere che la magistratura e la Consob facciano chiarezza. Però posso dire, io, questa è una mia opinione, prendetela come volete, però io non vedevo la necessità e urgenza, cioè no. Si poteva fare tranquillamente con un altro strumento, primo. Secondo, e c'è un rapporto con la speculazione secondo te? Chiunque sappia leggere due grafici di trading può vedere ampiamente. Io ho fatto un po' di simulazioni con un po' di software che ho dal Financial Times, tra l'altro, sì. Mica no. È micidiale. Cioè una speculazione. Cioè i giorni prima dei rumors sono cominciati ad accumulare acquisti, anche da prima, quindi con posizioni diciamo un po' lunghe, e dopodiché i titoli sono schizzati a livelli stellari, cioè 65%. Ma comunque ragazzi, la procura di Roma ha aperto, infatti. Sì, però queste indagini sono sempre un po' così, cioè. Perché in realtà gli strumenti che abbiamo in Italia per aggredire questo tipo di speculazioni non sono minimamente paragonabili a quelli che hanno negli Stati Uniti e così via. Vedremo, non ho grande fiducia sull'indagine in sé. Mi ha colpito molto la notizia. Comunque non occorre una laurea in econometria Princeton per capire che cosa è successo, ve l'assicuro. Ecco, a me ha colpito molto il fatto che al punto 40 del programma elettorale di Tsipras ci fosse questo fatto della uscita dalla NATO e del ritiro delle basi militari. Ma è equilibrio geopolitico. No, ma è nel programma di Tsipras, certo. Il che significa che questa ipotesi russa, che per adesso viene, come dire, derubricata, diciamo, un po' giornalisticamente, forse invece ha un peso più interessante. Il mio pronostico è che ci terremo la Grecia proprio per questo. Per motivo. Non fa perché, esatto. Perché Russi e Cina. Dimmi, Pietrangelo. No, anche perché è curioso questo punto di vista ellenico. sull'uscita da quelli che sono i meccanismi della Fondo Monetario Internazionale, i meccanismi dell'Alleanza Atlantica, sì, e fa un'operazione che è già stata fatta in Europa dall'Ungheria, che però si è richiamata addosso l'anatema e l'esorcismo di tutti. In questo caso è un'uscita da sinistra, perché quella, certo, ungherese è stata un'uscita da destra, dove è stato facile gridare alla ITA, ma che lo faccia adesso da sinistra creerà ben no, più lo faccia di un problema. Non è detto, lo faccia non è detto, ma certamente ma già dichiarato, ha creato delle precondizioni, sì, per rendere una cosa possibile. Se è uno di destra a dire addio al Fondo Monetario, vabbè, Internazionale, a dire addio all'euro, una cosa se lo dice uno di sinistra. Naturalmente, stamattina guardavo la rassegna di Foreign Affairs, che è uno, sì, dei più importanti think tank americani. Era divertente perché allora Putin viene dichiarato finito, ovviamente il leader ungherese è un pericoloso nemico delle grandi democrazie, e Tsipras era, diciamo, una cosa che non andava molto bene, mentre Podemos in Spagna era una cosa in ascesa che forse poteva finire l'austerità. Insomma, l'orientamento, diciamo, della comunità internazionale ben pensante è molto chiaro se si leggono le cose giuste. Ecco, il problema è che se poi andiamo a vedere, adesso io non voglio difendere Tsipras, anzi secondo me tutto e anche alla grande, perché poi loro si sono cacciati. D'accordo, però adesso. Gli IMF, però, cioè il Fondo Monetario Internazionale, ha sbagliato tutto. Se Tsipras fa quello che ha fatto Orban, come reagiranno i ben pensanti? Questo vedremo. Perché è un tema che in realtà è ben lungi dall'essere risolto, e sono prospettive che esistono realmente. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 66 sms, pubblicità. Mix 24. Quando mi dici così, ti amo, io ti rispondo così, ti amo, come ci vogliamo bene noi due. Allora, Pietrangelo, il tuo controfestival continua? Ma non è un controfestival, però non ci crederete, ma stamattina è successa una cosa incredibile. Sono entrato infagottato in metropolitana e già sulle scale mobili, arrivando in banchina, mi sono ritrovato sollevato dal peso di berretto, guanti e sciarpa, e mi sono ritrovato foderato come tutti i pendolari in abito da sera. Tutte le signore poi e le ragazze elegantissime, seducenti e sorridenti in una festa tutta d'orchestra ed allegria. Ed è quella di un'Italia fatta di brio e garbo. E poi ho capito, anche perché il filosofo me l'ha spiegato, il tutto perché in un venerdì mattina che dalla metropolitana porta in treno per arrivare stasera, ed è l'augurio per tutti, in una grande, meritata festa. Ti amo, come ci vogliamo bene noi due. Anche le tue bolle vanno al festival, Mario? Sì, perché siamo in questo clima. E noi dobbiamo assolutamente essere ultra pop. Ieri hai dato delle previsioni straordinarie sul festival. La tendenza erano quelle, poi le vediamo. Dopo le vediamo. Questo software incredibile che hai inventato cambierà le regole dell'ascolto. Proprio le regole dell'ascolto, della misurazione dell'ascolto, sì. Dopo ne parliamo. Va bene. Certo, la misurazione. Andiamo. Entrata in cuffia l'ugola di Umberto Tozzi, praticamente stavo là. Niente al confronto della tua, dillo. No. Intanto guarda, ti abbiamo registrato e ti manderemo. Ah, avete fatto questo? Certo. Provate a mandarmi, io chiamo un paio di amici di Orgosolo. Va bene, ok. Allora? Allora, e niente, si può dare di più. Quanto ci costano in Grecia? Un mucchio di soldi. Beh, è vero quello che ha detto poco fa il ministro Padoan, cioè c'è un accordo politico di base per tenere la Grecia agganciata all'Europa. Tantissime reazioni sull'intervista di Padoan, sì. Moltissimi sms, dopo ne daremo conto. Ed è anche vero però che la Grecia, insomma, è una cosa abbastanza surreale. Adesso la BCE gli ha aperto una linea di credito perché le banche avevano un problema di cassa proprio, sì. Li stavano portando via i depositi. E c'è un piano di salvataggio per la Grecia, quale? Perché Tsipras non vuole quello che scade adesso a fine mese e devo dire, paradossalmente, dobbiamo sperare noi italiani in Angela Merkel, cioè che tenga duro, perché quando finirà questo il vecchio piano da 172 miliardi e Tsipras chiederà ovviamente di un allungamento del debito sine die, che si chiama rinuncia cioè di non, al credito, non dico di non pagarlo, ecco, ma insomma Mario, tra scusa, 30 anni che Carlo, lo sappiamo. Carlo Grezio ci scrive: caro Minoli, perché non sottoponete a fact checking l'affermazione che i derivati non sono stati valutati negli stress test della BCE? Lo faremo sicuramente per dare una risposta esatta, perché là dentro c'è qualcosa che ci riguarda. Là dentro c'è qualcosa che ci riguarda. In Grecia 43 miliardi di esposizione. Esatto. Quindi io tifo affinché ce li restituiscano con gli interessi. Sì, dubito. Salamino! Salamini coi formaggi! Salamino che si accompagna al formaggio. Allora, la bocca non si straca se non sa de vacca. Allora, dicono che la bocca non si stanca se non ha quindi il formaggio. E riuscirà il cavalier Silvio Berlusconi a fare il suo formaggio col latte di Salvini, quello di Alfano, e mettere insieme il salvabile alle regionali dal Veneto alla Campania? Nella regione delle bufale i sondaggi attestano Forza Italia al 21%, ben oltre dunque il 13% su cui incombe... Alessandra Ghisleri Docet, e incombe appunto il sorpasso su Forza Italia da parte di Salvini. Il formaggio è comunque stato servito a tavola... Disposizione a tavola ieri è stata questa: il cavaliere, punto, si è messo a capotavola, Maria Rosaria Rossi, quella che dai maligni è soprannominata la badante, accanto a lui, e poi Niccolò Ghedini, Giovanni Toti, Deborah Bergamini e il nostro Dudù, ciao Dudù, e quindi Sestino Giacomoni, ma non c'era Francesca Pascale. Non è stato invitato Denis Verdin, non è stato invitato Paolo Romani, che giustamente si guarda bene dall'accomodarsi nel cerchio magico, lo fa sapere. Non c'è Renato Brunetta, dallonato, racconta Stendhal, che si firma sul Corriere della Sera con lo pseudonimo di Fabrizio Roncone, e perché c'è Marielle Boschi che lo tallona a sua volta facendolo tallonare da Verdini, insomma tutto un tallonare di talloni sui tacchi, ticchi, tacchi di Francesca Pascale, che al desco ieri non si presentò facendo cantare tutti quanti, li ha fatti cantare così. Io cerco la tittina, tittina, oh tittina, io cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Mario, ancora una bolla. Viva, viva Garibaldi, un paesà. Beh, stiamo sul pezzo. Garibaldi in fondo era l'eroe dei due mondi, quindi infatti, ci può stare, no? L'Europa, avete visto, c'è un cessate il fuoco siglato a Minsk, quindi stiamo parlando di Ucraina. In realtà si allontana per un po' il rischio della guerra, però da tutti considerato molto fragile, certo, l'accordo. Che le condizioni, le tappe sono molto difficili da mantenere. Nessuno riuscirà a rispettarlo così com'è, secondo me. Però E oggi escono i dati, questo naturalmente è comunque positivo perché c'erano anche, voglio dire, delle nuvole sulla crescita europea legate ovviamente a un conflitto. E oggi escono i dati dell'Eurozona, la crescita, vediamo, previsioni più 0,2%, sono buone perché comunque l'abbassamento del prezzo del petrolio è un fattore determinante e in più tutti si attendono un dato positivo prima o poi dagli effetti del quantitative easing della BCE di Mario Draghi. Insomma, qualcosa di meglio. Se l'Italia però non fa le riforme, noi perdiamo un'occasione, come suol dirsi, no? Cosa stai leggendo, Giovanni? No, stavo leggendo Carlo da Treviglio che ci chiedeva se c'è un elenco completo degli italiani presenti nella lista Falciani. I siti citano solo i nomi che interessano loro, non lo so se c'è da qualche parte. Io non ce l'ho, però posso dire, essere nella lista non vuol dire essere un evasore. Assolutamente, dipende. Cioè, chiunque di voi può aprire un conto legalmente all'estero oggi, non è quello il punto. Aggiungo, avere il conto all'estero non significa aver evaso il fisco. Tu potresti essere regolare, il più importante è dichiarare quelle somme. Punto. Esatto. Canzoniere. La volontà di verità che ci sedurrà ancora molti rischi, quel famoso spirito di verità di cui tutti i filosofi fino ad oggi hanno parlato con venerazione, questa volontà di verità, quali mai domande ci ha proposto, quali malvagie, bizzarre, problematiche domande. È già una lunga storia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Abbiamo una telefonata? No, non c'è la telefonata, non c'è ancora. E allora, Mario, c'hai un'altra bolla? Certo che ce l'ho. Senti, anche un bellissimo pezzo, una canzone d'amore. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Senti che acuto che fa. Sanremo dimostra in fondo che c'è, come in tutti i settori, le cose della vita, il bello e il brutto. Certo. Il buono e il cattivo. E questo è un grande pezzo. Cosa ridi, Buttafuoco? Guarda, Buttafuoco, tu sei tremendo. Non mi pregusto l'ugola. No, l'ugola d'oro, la cucina. Non c'è prova. C'è la telefonata o no? Scusa, Mario, un secondo. Francesco da Trapani. Francesco? Sì, buongiorno. Buongiorno, ecco, dica. Senta, volevo sapere, ed era la domanda che da fare al ministro, cosa succede ormai il ministro con i risparmiatori per quanto riguarda la Popolare dell'Etruria adesso che l'hanno commissariata? Questo gliela giriamo al ministro che sarà in ascolto, ma noi purtroppo in questo momento non l'abbiamo più qui con noi. Magari Mario hai una risposta. Ma sai, il commissariamento è un bene, perché la banca era gestita male. I rumors erano continui sulla gestione di quella banca. Non dovrebbe essere un danno per i piccoli risparmiatori. No, anzi, cioè, sotto commissariamento ci sono delle garanzie ulteriori. Certo, l'aspettativa è quella che poi torni a una gestione normale. Certo. Però è in corso appunto la trasformazione anche. Quindi diciamo che la cosa del decreto è strana, tra virgolette, tutto è tutto ovviamente più che legale, giustificato in politica eccetera, ma dal fatto che appunto le condizioni erano tali per cui le voci di un commissariamento di Etruria erano note. Cosa fai? Tu fai il decreto mentre c'è anche l'ipotesi del commissariamento? Vabbè, insomma, che i piccoli risparmiatori però dovrebbero essere tutelati. In ogni caso cercheremo di avere una risposta precisa. Posso ministro. Solo aggiungere, e le banche popolari vanno riformate, cioè la direzione del governo non è sbagliata. No, ma l'ha sono detto, lo strumento, i tempi e insomma il modo con cui è stato fatto tutto. No, anche le banche popolari si sono svegliate tardi, diciamocelo, dovevano autoriformarsi molto prima. Grazie Mario. Allora parliamo di Sanremo, del tuo Sanremo. Vabbè. Vabbè, no, niente, io faccio una cosa con un gruppo di amici. No, perché è molto interessante. Si chiama My Second Screen, noi stiamo, è un'app disponibile su Apple Store e su Google Play, tu la prendi, la scarichi sul telefono. Benissimo. E ti guardi la televisione. E che cosa, no, che cosa ci dite di più di quello che vediamo sullo schermo? Beh, intanto ci indica le tendenze di Twitter in particolare, cioè che cosa piace o non piace agli utenti quando guardano la televisione. Tu sai che già negli Stati Uniti oggi l'85% delle persone guarda la TV e la commenta su smartphone o tablet. La cosa interessante è che il primo giorno è andato molto bene. Sì. Questo. Stiamo parlando di Sanremo. Stiamo parlando di Sanremo, ovviamente. Il secondo giorno, l'abbiamo detto ieri, è andato male. C'era stato un calo che ha corrisposto a un calo dell'Auditel. E oggi è andato malissimo. Perché, quindi tu stai facendo questa previsione. Meno 47% rispetto alla prima puntata. Stai facendo questa previsione alle 9.44, mentre i risultati Auditel ci saranno. Vediamo se incrociano. Non è una correlazione, ovviamente. Diretta, però è una tendenza, però è interessante vedere cosa funziona, e c'è un calo molto consistente nella terza giornata del festival. Benissimo, interessante vedere questa scommessa, se la tua app, il tuo algoritmo risolve dei problemi e apre degli scenari nuovi nella lettura degli ascolti. Mix 24 Pietrangelo con un salamino. Salamini filosofici, salamini di filosofia, lectio magistralis di Emanuele Severino nella sala Zuccari di Palazzo Madama al Senato. È stato invitato dal gruppo del Partito Democratico per una lezione. Che ha detto? Sul rapporto tra tecnica e politica. Sì. Ha spiegato la dottrina hegeliana del servo e del padrone, con il servo che sopraffà il padrone. Lo vogliamo sentire lui? Devo solo fare un codicillo, che se si trattasse del mio pensiero filosofico, allora non varrebbe la pena di perderci un momento, è che ciò a cui si riferiscono i miei scritti è fortunatamente diverso dal sottoscritto e dagli stessi scritti. Quindi non è che si tratti di dire Severino si crede l'unico pensatore, no. Severino è un povero diavolo come tutti gli altri che guarda, che indica un contenuto che però, ecco, quello sì, il contenuto è diverso da tutti gli altri. Il contenuto è diverso da tutti gli altri, la lezione è servita per capire il rischio che la politica corre con la tecnica. Pietro Grasso, Presidente del Senato, ha ascoltato con grande attenzione, forte di pensiero, ha preso un pensierino e ha schiacciato, cioè no, ha schiacciato, insomma, ecco il suo commento. No, senti, ma... un po' di rispetto per l'istituzione, la seconda carica dello Stato. Vabbè, senti, guarda, facciamo così, oggi come tutti i venerdì è il momento della nostra posta del cuore. Sara, che ha curato naturalmente come sempre anche la notizia in 3D, ci legge la sua lettera. Scrive Paola: c'è poco da ridere, ragazzi, su questa lettera. Amo mio marito e quando ho scoperto che mi tradiva ero terrorizzata all'idea di perderlo. Così ho fatto finta di niente. Mi sono sorbita in silenzio tutte le umiliazioni di una cornuta inconsapevole con la consapevolezza dell'innamorata. Mesi di bugie, disattenzioni, sgarbi, euforie e rabbie. Ma alla fine ho avuto ragione, ha scelto me. Consumata la passione, è venuto a raccontarmi di essere uscito un paio di volte con una della palestra, ma di essere pentitissimo, nonostante non fosse successo nulla. Certo, avevano bevuto il tè. Comunque ho finto di crederci, felice che la nostra vita insieme potesse finalmente tornare quella di una volta. E invece adesso io lo detesto. Mi irrita il suono della sua voce, mi disgusta vederlo mangiare e quelle sue gentilezze viscide da spaccargli la faccia. Io lo odio, sogno la vendetta, tradirlo con il mio ex, con un amico, con chiunque. Sembra folle, ma forse così saremo di nuovo pari e potremmo ricominciare veramente. Pietrangelo? Sì. Io dico che ci vuole qualcosa che possa sublimare tutta questa rabbia, tutto questo rancore, insomma è ontologicamente dimostrato e indimostrato allo stesso tempo, insomma in una bolla di confusione, per cui questa signora dovrebbe, non dico perdonare, ma comunque dimenticare, perché comunque... Insomma, intanto cretino lui che va a fare tutte queste confessioni, queste riflessioni, tutte queste cose. Insomma, una lezione che sia definitiva una volta per tutte a queste signore che ci scrivono e a queste signore che fanno tutti questi danni. Statevi muti! Guarda, c'è una per te, Pietrangelo. C'è un programma bellissimo. Dita Buttafuoco deve parlare davanti al microfono. Dama, Sara, rispondi a Buttafuoco. Cara Paola, io in qualche modo oggi sono, non dico d'accordo con Pietrangelo, però la vedo così. Mi viene in mente il mediano, quello che a calcio gioca mediano. In una coppia forse è necessario. Forse però tu ti vuoi trasformare in un attaccante ed è legittimo. Però guarda che il ruolo del mediano è molto apprezzato e quasi considerato un eroe. Ascolta qui. Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sara, ma non indovina nessuno il nostro canzoniero, eh? Io non so come dirlo. Ma glielo dai un aiutino, Pietrangelo, fai delle domande. Oh, è facilissimo. Facilissimo. È stato tratto anche, a parte il fatto che è una categoria filosofica fondamentale, poi è stato pure tratto. Se non faccio fare il commento a Grasso. No. Scusi presidente, Buttafuoco oggi è come sempre. Liliana Cavani fece un film da questo fondamentale testo. Dai, forza. Più aiuto di insomma, dato un dai, aiuto. Dai, radioascoltatori, per cortesia, non facciamo la figuraccia. Dai, Mario, c'è una bolla intanto, sì, ancora. Sì, mettici una canzone, la scegli tu in regia, dai, poi la leghiamo. Dai, su, dai, vale. Non la trovi? Vabbè, allora vi ricordo questo. Mi oggi, ha preso di nuovo il comando. Oggi ricordiamo, siamo in clima di Sanremo, un grande cantautore anticonformista, un personaggio di rottura nel panorama della musica italiana, che è stato ed è Luigi Tenco, che il 27 gennaio del 67 all'Hotel Savoy di Sanremo muore con un colpo di pistola alla tempia. Una morte molto controversa che ha fatto molto discutere, a torto o ragione. Sentiamo Gino Paoli, che lo conosceva bene, era un suo amico, cosa dice di quella morte. Luigi era il mio fratello minore. Era fratellino. E fratellino. Ecco, sì. Ma della storia di Tenco noi gli dedicheremo una puntata. È stata scritta la parola fine secondo lei o no? Sì. Assolutamente. Ma no, era scritta nel momento che è successa. Che si è suicidato. Sì, no. Cioè noi sapevamo benissimo perché si era suicidato, tutti cioè, quanti. Perché era impasticato fino al collo e con delle pasticche, delle cose che avevano scoperto lui, e Frezza e Piero, l'italiano, in Svezia, dove... praticamente delle droghe nuove, non è anche una droga, era una buffonata, nel senso che lì, ma e questo l'ha spinto a spararsi? Sì, perché ti sdoppiava questa cosa che prendevi, che poi è facile perché era Pronox, che è un, una, Vabbè, insomma, la sonnifero con whisky. Ah, okay. Comunque tutti questi artisti che abbiamo sdoppiava la, quindi non eri ti guardavi vivere okay. Poche parole. Ecco, dopo il giornale radio Marina Minone raccontiamo la storia di Luigi Tenco realizzata da Maurizio Malabruzzi. Per chiudere un ti abbiamo trovato la canzone da mettere bravi, sotto l'ultima bolla. Bravi. Brava. Vai. Elisa è forte. Allora, ma è molto semplice, un piccolo resume di cose tecnologiche. Xiaomi, che è il grande costruttore cinese di telefoni, sbarca in America, comincerà vendendo cuffie e attrezzi per il fitness, per i tracker, si chiamano così, e comincia la grande sfida del produttore cinese a Apple. Questa è una cosa molto importante, vedrete, ci sarà una sfida sempre più grande dell'Oriente ai tech, ai giganti americani. Bene, Elisa. Cura di tutto.